Via Nazionale. Considerata un tempo l'arteria più importante di Roma, voluta dai Savoia, oggi è solo un grande centro, sede di uffici, banche e centri commerciali. Questo rettilineo, agli inizi del secolo, era decorato con filari di alberi che ne addolcivano lo stile severo delle costruzioni. Via Nazionale ha un pavimento di basalto, detto San Pietrino. Ai nostri giorni l'asfalto ha sostituito per motivi di praticità questo solido elemento che ha origini antiche. La grande piazza di San Pietro fu la prima ad adottarlo, da cui il nome.